Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Nel pomeriggio Edouard è atteso alla casa degli scrittori, di cui 20 anni prima aveva fatto tanta fatica a varcare la soglia. Ha accettato l'invito solo perché sperava di gustare il dolce sapore della vendetta. Ma questo sapore non è dolce. Odore di mensa, poeti di terza categoria vestiti come piccoli burocrati, al punto che la meno antipatica è l'arpia del bar, che gli versa il cognac in una tazza da caffè. Lei non lo riconosce, ma lui sì. La donna era già lì ai tempi del seminario di Arsenij Tarkovsky. Edouard viene condotto in una saletta, dove trova un pubblico sparuto. Lui si aspettava degli apparacci culturali e scopre invece con stupore che sono tutti vecchi militanti dell'underground. Non c'è nessuno dei suoi amici, ma Edouard riconosce dei volti intravisti in passato in occasione di qualche festa o di una lettura di poesia. Volti di comparse, volti spenti, rosi dall'odio per se stessi. E come sono diventati vecchi, lividi o paonazzi, gonfi, sciupati. Non sono più under, certo, ora che tutto è permesso, tornano alla luce. E la cosa terribile è che la loro assoluta mediocrità, misericordiosamente occultata in gioventù dalla censura e dalla clandestinità, è sotto gli occhi di tutti. Il primo a prendere la parola è anche l'unico, a quanto pare, che sia riuscito a entrare in possesso di una delle 300.000 copie dell'epoca gloriosa e chiede con voce severa a Edouard che cosa significhi quell'apologia del KGB da parte di un presunto dissidente. Edouard risponde ruvido che non è mai stato un dissidente, solo un delinquente. Una donna di mezz'età dice con aria accorata e malinconica di averlo conosciuto un po' quando entrambi erano giovani. E non importa se lui non se ne ricorda più, lei invece si ricorda un giovane poeta ispirato, con i capelli lunghi, pieno di talento. Ed è stupita di vedere tornare uno che somiglia a un segretario del Kansamol. Cosa rispondere? È un dialogo fra sordi. Nel mondo da cui Edouard proviene, un artista può, anzi, è consigliabile che lo faccia, portare capelli a spazzola, occhiali con la montatura di tartaruga e vestiti neri attillati. Edouard preferirebbe morire piuttosto che andare in giro con il vecchio maglione sformato sotto la giacca dal collo cosparso di forfora, che è il non plus ultra dell'eleganza under. Poeta uguale relitto umano. Questo pensa la donna, che probabilmente vorrebbe che Edouard somigliasse a Benedikt Jerafiejev. E a proposito di Jerafiejev, un terzo interviene per riferire che il mitico autore di Mosca sulla Vodka ha saputo del ritorno del suo vecchio amico Limonov, ma poiché questi è sponsorizzato dal mercante di giornali scandalistici Julian Semyonov, si rifiuterà di stringergli la mano se dovesse andare a trovarlo. Che ne pensa Edouard? Edouard risponde che non ne pensa nulla, che non aveva intenzione di andare a trovare Jerafiejev, che non sono mai stati amici. Si va avanti così per mezz'ora. E al termine dell'incontro, Edouard declina l'invito a bere qualcosa con i giovani dell'Unione degli Scrittori. I giovani dell'Unione degli Scrittori. Sono 4 del pomeriggio ed è calata la notte. Edouard se ne va, sollevando il bavero del giaccone da marinaio della corazzata Potionkin. Quel terribile pomeriggio gli ha tolto ogni voglia di rivedere i vecchi amici. Ha fatto proprio bene a piantarli in asso 15 anni prima. E quanto lo odiano per questo. Mentre lui lottava per sopravvivere sul fronte occidentale, quelle sono rimaste ad ammuffire nel loro poco confortevole comfort, protette dalla cappa di piombo dell'amara consapevolezza di essere dei mediocri. L'insuccesso era nobile, l'anonimato era nobile, persino il decadimento fisico era nobile. Potevano sognare che un giorno sarebbero stati liberi e quel giorno sarebbero stati acclamati come eroi, poiché avevano custodito per le generazioni future, sotterraneamente in clandestinità, il meglio della cultura russa. Ma, arrivata la libertà, non interessano più a nessuno. Sono nudi, rabbrividiscono nel grande gelo della concorrenza. Quelli che hanno preso il sopravvento sono giovani gangster, come gli aiutanti di Semyonov, e l'unico luogo in cui gli under possono trovare rifugio è l'Unione degli Scrittori, dove continuano a venerare un patetico relitto umano come Benedikt Jerafiejev e a diffidare di un tipo pieno di vita come l'avventuroso Limonov. A un certo punto, nel corso di quella lugubre serata, Edward entra in una galleria che espone, quasi fossero oggetti kitsch, opere di artisti un tempo clandestini, ed è sorpreso di riconoscere una tela che ha visto dipingere al suo vecchio compagno di bohème, Igor Vorashilov, il ritratto di una donna vestita di rosso davanti a una finestra. Lei era all'epoca la ragazza di Igor, la finestra quella di un appartamento che Edward ha diviso con loro due per qualche tempo. La donna era carina, ora deve essere diventata una cicciona. Quanto a Igor, il catalogo dice che è morto da 2 anni. Edward chiede il prezzo del quadro. È un prezzo ridicolo. E di fatto pensa non vale di più. Povero Igor. Non si sbagliava la notte in cui voleva suicidarsi per la disperazione di essere soltanto un artista di terz'ordine. Il mercato ha emesso la sentenza. Il mercato ha ragione. E la sua impietosa ragione non lascia nessuna speranza alle anime gentili e ignave dei suoi amici di gioventù. A un tratto Edward viene afferrato da una profonda tristezza e da qualcosa che somiglia alla pietà. Lui, che si vanta di disprezzare i deboli, ora prova pietà per quella debolezza. Prova pietà per l'anima gentile e ignava di Igor, per l'inserviente dei bagni al ristorante, per tutto il suo popolo. Vorrebbe poter fare qualcosa, lui che è forte e cattivo, per difendere dai forti e dai cattivi l'anima gentile e ignava di Igor Vorashilov, l'inserviente dei bagni e tutto il suo popolo. Da ogni cabina telefonica che incontra, Edward prova a chiamare la madre di Natasha finché, miracolo, la donna risponde. Edward si presenta, chiede dov'è Natasha e la madre scoppia in singhiozzi. Natasha è stata a casa, si è fermata 2 giorni e se n'è andata senza lasciare recapito. Anche la madre è in pena. Edward le propone di raggiungerla. La donna abita lontano. Edward prende il metrò e qui si calma un po'. In fin dei conti è il posto in cui si sente meno oppresso. Dopo aver vagato a lungo per i viali innevati di un complesso edilizio dell'epoca di Khrushchev, si ritrova in un minuscolo monolocale dove regna un ordine perfetto e le collezioni dei classici rilegati sono conservate dietro una vetrinetta come a casa dei suoi genitori. La madre di Natasha è una donnina sciupata, consunta dall'ansia, che non si fida di Edward ma conta su di lui per ritrovare la figlia, perché se non la ritrova lui, chi la ritroverà? Il visto di Natasha deve essere scaduto, non si può escludere il peggio. E dire che la madre pensa soltanto all'alcol, che le ha già ucciso il marito, il padre di Natasha, non immagina nemmeno che la figlia sia ninfomane e affetta da un disturbo bipolare, e che può starsene buona e tranquilla a casa per mesi a scrivere poesie e poi, di colpo, sparire per 4 o 5 giorni, andare a scopare con il primo che passa e tornare a casa smarrita, stravolta, con le mutandine sporche di sangue e di merda. Edward non gliene parla. Non serve a niente versare benzina sul fuoco. L'angoscia della madre già trasuda dai muri troppo ravvicinati del locale, ma pensa che forse lui stesso vivrebbe meglio se non trovasse Natasha, se questa sparisse definitivamente dalla sua vita. Lei la ama? Chiede improvvisamente la donna, come ha fatto Vitez. E come a Vitez Edward risponde: è mia moglie. Mi prendo cura di lei da 7 anni e continuerò a farlo. Allora la madre comincia a baciarlo, a benedirlo, a dirgli che è un uomo buono. Edward non è abituato a sentirselo dire, ma pensa che almeno in amore è vero. La madre di Natasha gli ha dato l'indirizzo di una vecchia compagna di scuola della figlia, che potrebbe sapere qualcosa. 3 quarti d'ora di metrò, mezz'ora a piedi, con 15 gradi sotto zero e addosso solo un giaccone leggero. È mezzanotte passata quando Edouard mette piede in una specie di appartamento occupato da artisti, dove però girano persone che, più che artisti per quanto dark, sembrano scippatori o spacciatori, e probabilmente lo sono. L'amica di Natasha, una bionda con le radici dei capelli nere, sfatta, con la voce stridula, ha visto la foto di Edouard su Top Secret e Natasha le ha parlato di lui, certo non bene, perché è chiaro come il sole che lo detesta. Ciononostante, lei e Edouard si siedono in cucina, bevono un bicchiere di vodka e l'amica ci gode un mondo a raccontargli che, certo, sua moglie è stata lì, in compagnia di due uomini. È rimasta a dormire con la scusa che abitava troppo lontano per rincasare e girava nuda per casa, fumava nuda sulla tazza del cesso, masturbando uno dei due uomini mentre l'altro cercava di scoparsi lei, l'amica. Edouard pensa che l'amica di Natasha sia una donna malvagia, una di quelle troie russe la cui unica morale è che l'uomo è un nemico e farlo soffrire una vittoria. Dovrebbe alzarsi e andarsene, ma è tardi. La metropolitana è chiusa e rischia di camminare per ore prima di trovare un taxi, quanto a chiamarne uno neanche a pensarci. Così rimane. Continua a bere e ascoltare sempre più inebetito l'amica che gli spiega come sia tutta colpa sua, che lui tratta male Natasha, è stata lei a dirglielo. Si siedono con loro altri inquilini dell'appartamento e tra questi un ceceno di nome Jellal, che prima insiste per sapere se Edouard sia ebreo, perché è convinto che in Francia siano tutti ebrei, a partire da Mitterrand, e poi, scherzando in modo sempre più minaccioso, cerca di costringerlo a consegnargli il passaporto. Il pericolo è palpabile. Le cose potrebbero mettersi male, ma Edouard resta cool. O forse è l'abbruttimento a prevalere, perché tutti stanno ormai scivolando nella fase torpida della sbornia. L'ultima cosa che Edouard ricorda è di avere pronunciato una specie di discorso sull'argomento. Questo paese è magnifico nei grandi momenti storici, ma qui non si condurrà mai una vita normale. La vita normale non fa per noi. Si sveglia all'alba, con la fronte appoggiata al tavolo della cucina. Attraversa senza fare rumore l'appartamento, in cui alcuni dormono per terra, controlla che non gli sia stato rubato il passaporto, si rimette le scarpe, che si era tolto all'arrivo, come si fa sempre in Russia d'inverno quando si entra in casa. Nonostante il mal di testa, ha la mente lucida e un programma preciso. Ripassare in albergo a prendere lo zaino, piantare in asso Semyonov e la sua tournée, farsi portare alla stazione e salire sul primo treno per Kharkov. Per questo viaggio di 18 ore ha comprato, senza neanche pensarci, per un'abitudine da povero, un biglietto di terza classe e a conti fatti non se ne pente. Si è sbarazzato della sua pelle di scrittore famoso per perdersi nella folla dei russi rozzi e pidocchiosi che invadono i sedili del treno con i loro viveri maleodoranti e la loro vodka. Nella carrozza senza scompartimenti, con le cuccette in fila e sovrapposte come in una camerata, ci sono ceffi da delinquenti, ma anche volti così innocenti, così vulnerabili, da far venire voglia di piangere. Volti veri ad ogni modo, Vitesa aveva ragione, rubicondi, grigi o anche verderame, ma non rosei come i musi degli americani. Edouard guarda sfilare il paesaggio al di là dei finestrini sudici. Betulle, neve bianca, cielo nero, immense distese vuote punteggiate qua e là da stazioncine con serbatoi d'acqua. Alle fermate del treno, sulle banchine, donne anziane con stivaletti di feltro litigano come lavandaie per vendere cetriolini o mirtilli. Anche se viene da lontano, Edouard non ha mai conosciuto altro che la città e si chiede come deve essere vivere in quei paesini. Thank you. passeggero seduto di fronte a lui legge Top Secret. La settimana prima la rivista ha pubblicato la foto di Edward e il passeggero potrebbe riconoscerlo, e invece no. Nel mondo in cui lui vive non si incontrano persone che hanno una foto sui giornali. Iniziano a chiacchierare. L'uomo racconta la notizia di cronaca che ha appena letto. In un paesino come quelli che stanno attraversando, una donna, per dare una lezione alla figlia di 10 anni, l'ha messa in catene all'aperto, con 30 gradi sotto zero, e alla bambina hanno dovuto amputare braccia e gambe che si erano congelate. Appena ricondotto a casa ciò che ne restava, un tronco, il convivente della madre non ha perso tempo e l'ha violentata. Così la ragazzina ha partorito un bambino che è stato anche lui messo in catene. Con tali premesse, la conversazione non può brillare per ottimismo. Certo, tutto sta andando a rotoli, diagnosi che Edward potrebbe sottoscrivere, ma non si tratta soltanto di questo. Secondo il suo compagno di viaggio, nel paese non ha mai funzionato nulla, e questa opinione è una novità. Un tempo la gente viveva male, mugugnava, ma nel complesso era comunque orgogliosa di Gagarin, dello Sputnik, della potenza dell'esercito, della grandezza dell'impero, di una società più giusta di quella occidentale. Secondo Edward, la sfrenata libertà d'espressione della Glasnost ha finito per mettere in testa alla gente semplice e senza malizia come il suo interlocutore due idee. Innanzitutto che quelli che hanno governato il paese, a partire dal 1917, erano dei sadici e degli assassini, e poi che gli stessi lo hanno portato alla rovina. La verità, si lamenta il compagno di viaggio, è che siamo un paese del terzo mondo, l'alto volta con i missili nucleari. Deve aver letto questa formula da qualche parte, gli piace e la ripete con accorata soddisfazione. Per 70 anni non hanno fatto altro che ripeterci che eravamo i migliori, mentre in realtà siamo dei perdenti. Spiopera i grali, un fiasco totale. Ecco dove siamo dopo 70 anni di sforzi e di sacrifici, nella merda fino al collo. Scende la notte. Edward non riesce a prendere sonno. Pensa alle poche lettere che ha ricevuto dai genitori durante la sua lunga assenza. Lettere lagnose, zeppe di stupidaggini e recriminazioni perché l'unico figlio che avevano non sarebbe tornato a chiudere loro gli occhi. Scorreva quelle lettere senza leggerle veramente, si rifiutava di compatire i genitori, ringraziava il cielo di averlo portato lontano dalle loro vite pavide e rattrapite. Un figlio cattivo, forse, ma intelligente, quindi senza pietà. La pietà rammollisce, la pietà avvilisce. E la cosa terribile è che da quando ha rimesso piede nel suo paese si sente invadere, oltre che dalla collera, dalla pietà. Si alza, si fa largo tra i pacchi legati con lo spago, pieni delle miserabili cose che si portano dietro i poveri quando si mettono in viaggio. Al cesso la tazza straripa di merda congelata. Nell'attraversare la carrozza di servizio per tornare al proprio posto, sente gemere la controllora che due giovinastri si stanno sbattendo a turno. In passato l'idea di soffrire per il suo paese gli sarebbe parsa grottesca, eppure ora soffre. Il treno è arrivato alle 7 del mattino e il taxi lo ha lasciato a Saltov, davanti a quel formicaio che è il palazzo in cui ha trascorso l'adolescenza. Con la sacca da marinaio in spalla, Edward sale le scale di cemento spoglie come quelle di una prigione. Davanti alla porta esita un istante. L'emozione non rischierà mica di ucciderli. Non sarebbe meglio chiedere a un vicino di avvisarli? Pazienza, suona. Fruscio di pantofole che sembra provenire dalla cucina. Prima che gli aprano, Edward dice attraverso la porta: «Mamma, papà, sono io!» Non devono aver sentito. «Chi è?» la voce della madre diffidente, impaurita. Da fuori non può venire niente di buono. Edoardo intuisce che ha l'occhio incollato allo spioncino. «Sono io, mamma», ripete. «Io, Edička». Lei toglie il chiavistello in alto, quello in basso, quello al centro. Ora madre e figlio sono l'uno di fronte all'altro. Con passettini da anziano, il padre arriva alle spalle della donna. I genitori sono stupiti, ma, stranamente, non più di tanto. Stupiti come potrebbero esserlo della visita di un cugino che abita nella città vicina e si presenta senza preavviso, non di quella di un figlio partito 15 anni prima e che pensavano di non rivedere mai più. Lo abbracciano, tengono il suo volto fra le mani e poi, di colpo, la madre lo allontana da sé per guardarlo meglio da capo a piedi e gli chiede dove abbia messo il cappotto. Non ha un cappotto. Impossibile. Non si può uscire con quel freddo senza cappotto. È troppo povero per comprarsene uno. No, mamma, non mi manca niente, stai tranquilla, sto bene così. Lei dice che ce n'è uno nell'armadio, un cappotto buono che il padre non mette più. Ed eccoli tutti e tre davanti all'armadio, con Edoardo che prova il cappotto per accontentare i genitori, e loro due che lo esaminano da ogni lato, e il padre dice che è un peccato, tutti quei begli abiti riposti nelle fodere, al riparo dalle tarme, e quell'appartamento che dopo la loro morte non lasceranno a nessuno. Non ha voglia di tornare e sistemarsi lì. Si sta bene lì, è comodo, tranquillo. Edoardo tronca sul nascere le loro illusioni, dicendo che si fermerà solo pochi giorni. Spiega che cosa è venuto a fare a Mosca, la sua tournée da VIP, il libro pubblicato in 300.000 copie. Gli piacerebbe che i genitori capissero che ha avuto successo, che ne fossero orgogliosi. Ma loro non paiono interessati ai racconti del figlio. Sono cose troppo distanti dal mondo in cui vivono. Non gli chiedono nemmeno se gliene ha portato una copia del suo libro. Meglio così, perché Edoardo non ce l'ha e perché, se ce l'avesse, loro non apprezzerebbero affatto il modo in cui li ha descritti. L'unica cosa che vorrebbero sapere è se ha una moglie, se possono sperare di avere un giorno dei nipotini. Una moglie sì, dice Edoardo senza scendere nei dettagli, ma figli no, non ancora. Non ancora, ha 46 anni. Raissa scrolla il capo, sconsolata. La curiosità dei genitori è presto soddisfatta e la routine quotidiana riprende sopravvento. Beniamin, che è diventato davvero un vecchietto, se ne torna, appoggiandosi ai mobili, a stendersi in camera sua. E in cucina, davanti a una tazza di tè, Raissa spiega al figlio che l'anno precedente il padre ha avuto un ictus e da allora non ha più voglia di niente. È lei che lo veste e lo sveste, lui non esce quasi più di casa e lei nemmeno, se non per fare la spesa. Dove andare del resto? Il centro la spaventa ed è contenta di non abitarvi. Qui è tranquillo, ripete. Come se insistendo sperasse di convincere Edoardo a sistemarsi in quella casa, infilarsi nel vecchio cappotto del padre, recuperare quello nuovo quando Beniamin sarà morto e anche la sua sciapca di montone rivoltato. Per evitare che il figlio pensi che non se la passano bene, la donna apre gli armadi e mostra con orgoglio le provviste messe da parte in caso di carestia, 30 kg di zucchero, sacchi di farina e altrettante riserve in cantina. Edoardo è infastidito dalla fiamma azzurra del gas che resta sempre accesa sul fornello. Vuole spegnerla, ma la madre protesta. Tiene caldo, e poi è una presenza, è come avere qualcuno con sé nella stanza. Se facessi come te a Parigi, spenderei migliaia di franchi, osserva Edoardo. E del poco che il figlio ha raccontato della propria vita all'estero, è questo il particolare che più di tutti colpisce Raissa. Vuoi dire che là lo Stato è così attaccato ai soldi da farvi pagare il gas? La donna non si capacita e pensierosa continua. Già, ma sembra che Gorbaciov e i suoi lecapiedi vogliono fare lo stesso qui da noi. Tranne che nelle grandi città e negli ambienti più o meno intellettuali, parlare di Gorbaciov è una conversazione riposante. Non c'è pericolo di litigare, lo odiano tutti. Questo pensiero dà a Edoardo un po' di conforto. Se fosse per lui, riprenderebbe il treno quella sera stessa, ma sarebbe una vera crudeltà. È la prima e probabilmente ultima volta che rivede i genitori. Così decide di dedicare loro una settimana e di espiare quella settimana come un galeotto, segnando sul calendario i giorni che mancano alla liberazione. Ha ritrovato i vecchi pesi e il mattino fa un'ora di esercizi. Rilegge, senza piacere, steso sul letto di quando era ragazzo, i suoi Jules Verne e Dumas. Manda giù ogni giorno 3 pasti troppo pesanti, si assoggetta a conversazioni disseminate di filo spinato con la madre, perché il padre non dice nulla. La donna racconta i minuti episodi di cui è costellata la sua giornata con una profusione di particolari quasi allucinante. Ignora l'ellissi. Per dire che ha ricevuto una lettera, descrive il percorso da casa alla posta, la fila allo sportello, lo scambio di convenevoli con l'impiegato, l'itinerario dell'autobus al ritorno. Così non ci si annoia di sicuro. Edouard chiede che fine abbiano fatto gli amici di gioventù. Kostia, detto il gatto, quello che era stato condannato a 12 anni di campo, è stato accoltellato in una rissa pochi giorni dopo la scarcerazione. È morto. E i suoi genitori stanno morendo lentamente di dolore. Quanto a Kadik il dandy che sognava di diventare sassofonista, lavora ancora alla fabbrica Pistone. La sua Lidia lo ha lasciato e lui è tornato ad abitare con la madre e insieme a lei ha cresciuto la figlioletta. La figlioletta è diventata grande, se n'è andata, Kadik è rimasto con la madre. Beve troppo, sarebbe contento di rivederti, azzarda Raissa. Edouard rifiuta. E Anna? Anna? Santo cielo, non hai saputo? L'hanno trovata impiccata nella topaia dove viveva da sola tra un ricovero e l'altro all'ospedale psichiatrico. Cercava di dipingere, era diventata enorme. Ogni tanto Raissa andava a trovarla. Un giorno Anna le ha chiesto l'indirizzo di Edouard a Parigi. Non ho potuto fare a meno di darglielo, ti ha scritto? Edouard scuote la testa. Ha ricevuto 5 o 6 lettere che trasudavano una squallida follia e non ha mai risposto. La televisione è sempre accesa. La televisione sovietica, secondo Edouard la più masochistica del mondo, annega il suo rosario di catastrofi e geremiadi in un flusso inarrestabile di musica zuccherosa. È appena morto Sakharov, la bestia nera di un tempo, e ad arretta ai giornalisti il paese intero lo piange, unanime, fin nelle più remote campagne. Sono diventati tutti pazzi, commenta Raissa, che sa a malapena chi fosse Sakharov. Sembra che sia morto Stalin. Un oratore paragona il proscritto di ieri a Gandhi, un altro a Einstein, un terzo a Martin Luther King, e un mattacchione a Obi-Wan Kenobi, il saggio mentore in Star Wars, del velleitario e irresoluto cavaliere Jedi al quale assomiglia sempre più Gorbaciov. E chi fa la parte di Darth Vader? Chiede l'intervistatore. L'immancabile Yevtushenka si piazza davanti alle telecamere per declamare una poesia in cui lo scomparso viene definito tremolante lucignolo dell'epoca. Metafora che suscita l'ilarità di Edouard e diventerà un private joke incomprensibile a tutti tranne che a lui nei suoi articoli per l'Idiot. Suspense. Gorbaciov decreterà o meno una giornata di lutto nazionale? No. Perché, fa notare, non è questa la prassi. Per il segretario generale del partito sono previste 3 giornate di lutto nazionale. Per un membro del Politburo, 1. Per un semplice accademico, nessuna. I commentatori ravvisano in questa freddezza il segnale di una svolta a destra, che trova conferma il giorno dei funerali. Gorbaciov si limita a raccogliersi brevemente davanti alla salma, invece di mettersi alla testa del corteo, che attraversa Mosca seguito da centinaia di migliaia di persone che nessuno ha costretto. Evento senza precedenti nella storia del paese. Un deputato, di cui Edouard ha già notato la schietta e piuttosto simpatica faccia da scimmione, Boris Yeltsin, coglie al volo l'opportunità. Si è già messo in evidenza come capo dei democratici, dando scandalo con le sue dimissioni dal Politburo. Adesso è lui a camminare dietro il feretro di Sakharov, accanto alla vedova, Yelena Bonner. Ogni volta che la telecamera la inquadra, la vecchia cornacchia sta fumando una sigaretta, o la sta spegnendo, o ne sta accendendo un'altra. Raissa nota che alcune persone attorno a Yeltsin e alla Bonner brandiscono cartelli con un 6 barrato da una croce e chiede: che cosa significano quei 6? Significano, le spiega il figlio, che vogliono abrogare l'articolo 6 della Costituzione, quello sul partito unico. E che cosa vorrebbero allora? Beh, che ci possano essere più partiti, come in Francia. Raisa lo guarda inorridita. Più partiti. Le sembra una barbarie, come far pagare il gas. Elio De Capitani ha letto Limonov di Emmanuel Carrère, traduzione di Francesco Bergamasco, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Jonathan Zenti, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Andrea Cerrato, copyright POL Editeur 2011, tutti i diritti riservati.